passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Si tirerà a campare oppure cambierà qualcosa? È il grande interrogativo di queste ore nella politica italiana. Parenzo! Tira a campare è una realtà ormai. Tu dici, non cambia nulla nelle prossime ore, cambia nei prossimi giorni, non cambia niente. Tutti hanno paura di dare la botta tutto definitiva. Sì, i sondaggi sono impazziti, non riescono a sondare esattamente il valore, no, di queste nuove formazioni. Il consenso di Berlusconi comunque sta venendo un po' meno, le contestazioni in Veneto, le inondazioni, erano quattro gatti in meno dei centri sociali, diciamo la verità, insomma. Quattro gatti qua, quattro gatti là, e diventano già otto. E poi? E poi Bossi mediatore, ci credi? Io non Bossi ci credo. Bossi mediatore, col Trota. Ci credi? No, Bossi mediatore. Bossi ha interesse in questo momento a mediare, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Letta che oggi ha parlato, Gianni Letta, il governo, la prospettiva è molto stretta. Intanto il Partito Democratico che rompe gli indugi e raccoglie le firme per la sfiducia del Premier. Prima voce di serata è quella di Pietro ieri sera a Ballarò. Sentite, onore a Bondi perché è coerente, questo è un messaggio ai finiani. Aspettare che Berlusconi si dimetta mi sembra una ipocrisia e anche un'idiozia. Ma gli puoi chiedere all'ultimo giapponese, puoi mai chiedere a Bondi di arrendersi? Ma non si arrenderà mai e gli va fatto onore pure, perché almeno è coerente fino alla fine. Io che ho combattuto il ministro Bondi da sempre, oggi gli rendo pure l'onore delle armi, perché almeno lui ha il coraggio di restare lì. Ma gli altri si mettono a bordo riva e dice dai, suicidati. Hai il coraggio di andare avanti e mette le cose come stanno. Non glielo puoi chiedere. A modo suo non ha tutti i torti di Pietro, dice, insomma, i finiani non è che possono chiedere a Berlusconi di dimettersi, cioè di suicidarsi, insomma, risolvono loro la questione. Ma poi voglio dire, c'è la questione delle dimissioni della delegazione di Futura Libertà, che è una cosa un po' formale, però certamente poi significativa. Era stata annunciata, non si capisce quello che deve succedere, fra poco lo chiederemo a un ospite. Enzo Carra, te lo ricordi, l'uomo delle manette? Come no? Grande protagonista della politica, della politica di un tempo, ancora però in ballo, ancora in sella, il quale oggi è passato all'UDC e dice l'unica prospettiva per Berlusconi è dimettersi, che era come il vecchio resistere di Borrelli. Cosa dovrebbe fare? Dimettersi. Poi? Dimettersi e dimettersi ancora. E poi cosa succede? E poi si apre una crisi. La risposta della Bindi ieri sera a Benigni. Prima Benigni, poi la Bindi. Rosi, sacrificati per il partito, Rosi, che tu gli garbi, hai visto, fa sempre quelle battute. Bindi, gli garbi, gli piaci, fa riferimenti continui a te, fa tutti questi riferimenti, hai capito? Perché sei sexy, ti devi intrufolare. Tu dai una foto a Emilio Fede, la metti nel book fotografico, un po' di trucco così, un po' di scinta, Rosi, mi dici, vedo proprio con la chiappa proprio del PD, quella generosa, capito? Vai là, gli dici che sei maggiorenne, tu regolare, rimani sola con lui e quando si mettono lì che c'è tutta quei orge cose, come ti mette la mano sulla chiappa, sono la Bindi del PD! Se ti arresta la polizia tu dici che sei la suocera di Zapatero. Liberate quella donna, si crea un incidente internazionale, è la suocera di Zapatero, la nonna di Fidel Castro. E poi la Bindi ieri sera. A parte che ieri sera mi sono divertita, mi pare che non ci sia più neanche troppo bisogno, voglio dire, che io prenda in considerazione un'offerta del genere, perché la giornata di oggi è insomma la prova che le difficoltà per il Presidente del Consiglio stanno davvero aumentando, e non solo io non sarei disponibile a sacrificarmi, ma credo che, e Benigni lo sa perfettamente, credo, l'unica cosa che non si può fare è di pensare di battere Berlusconi con i suoi strumenti. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Primo ospite, caro Parenzo, Enzo Raisi, Futuro Libertà, amministratore del Secolo d'Italia. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Molto bene. Ben ritrovato. Senta, avete annunciato pochi giorni fa che o Berlusconi si dimette e crea un nuovo governo, allargata l'UDC, l'ha detto il presidente Fini, domenica, oppure noi ritiriamo la nostra delegazione al governo. Ma qui non succede niente, Raisi. E quando è che l'ha ritirata questa delegazione? Ma secondo me è molto breve. Credo che entro lunedì la cosa venga, a meno che appunto non ci sia una scelta responsabile di chi ha chiesto a noi di fare un patto di fine legislatura, e noi gli abbiamo detto pronti a farlo sulla riforma, sulla competitività delle nostre imprese, quindi delle nostre industrie, che lo consideriamo il primo dei problemi. Secondo, lui ha detto, non noi, lui ha detto apriamo all'UDC, cioè a tutti i moderati, per rifare la grande coalizione di centrodestra e moderati, e noi gli abbiamo detto benissimo, lo vuoi fare, siamo d'accordo, però lo fai con un passaggio parlamentare e non da passaggi a prima repubblica. Ho capito, ma Berlusconi non si vuole, al di là non si vuole dimettere, dice che se si apre una crisi al buio poi non si sa come va a finire, per cui non si vuole dimettere. Prendetene atto e ritirate la delegazione, l'ha detto più volte. La delegazione verrà ritirata anche con un atto molto chiaro, perché mi sembra che per la prima volta quattro parlamentari al governo diano e rimettere il proprio mandato. Quando succede questo, Raisi? Io lo dico entro lunedì, questo lo posso entro fare. Lunedì con certezza. Ma dunque questo incontro tra Bossi e Fini non serve a niente? No, serve, perché non a caso hanno mandato la persona più pragmatica e in questo momento più responsabile, paradossalmente. Cioè più, è più pragmatico Bossi di chi ne so, di chi? Di La Russa, per esempio? Sicuramente di Berlusconi. Perché di Berlusconi addirittura. Mi sembra che Berlusconi in questo momento si faccia più condizionare, come dire, dai propri sentimenti che dal buon senso che dovrebbe avere chi ha la presidenza di un grande partito come il PDL e anche del governo. Ma quando questa delegazione sarà ritirata, perché non succederà niente da qui, lei me lo conferma, non succede niente. No, da qui. Io guardi, sono uno che dice mai dire mai, e la politica si è abituati a dei grandi Vabbè, d'accordo, cambiamenti. Però anche Letta. Vedo ad esempio. Che bello. Vedo ad esempio molta meno sicurezza e tracotanza rispetto a settembre, ad esempio, nel dire andiamo alle elezioni da parte di alcuni esponenti del PDL, no? Ma che deve succedere concretamente? Come diceva qualcuno, i sondaggi non sono più quelli di una volta, no? Ma se Berlusconi si dimette, cosa che io ritengo impossibile, perché voi dite o Berlusconi si dimette oppure noi ritiriamo la delegazione, giusto? È così? Esatto. Allora, voi se Berlusconi si dimette, mettiamo che questa cosa impossibile, Parenzo, avvenga, no? Che Berlusconi si dimette. Sì, sì. Che succede dopo? Voi volete un Berlusconi bis, un governo tecnico, che volete? Noi abbiamo tranquillamente detto che con un patto legislatura su quel tema, cioè della competitività delle nostre imprese, sì, che significa tutta una serie di cose, no, non è un dato da poco. Su quella, fra l'altro, è una richiesta ufficiale da parte delle parti sociali. Ma che vuol dire la competitività, la competitività delle aziende? Vuol dire che tutti i paesi in Europa hanno fatto durante la crisi economica delle grandi riforme, ultima la Francia sulla pensione. Noi siamo l'unico paese che non ha colto l'occasione della grande crisi, che ci stavo dicendo tutti, per fare una grande riforma laddove siamo deboli. Dove siamo deboli noi? Siamo deboli nella competitività del nostro sistema industriale. Quello è il primo tema all'ordine del giorno. Se vogliamo usare questa crisi affinché quando ne usciamo siamo in realtà siamo noi in sella, dobbiamo usare questi 3 anni. D'accordo, Raisi, ma ci vuole sempre Berlusconi come capo del governo, oppure voi pensate anche a qualcun altro? No, noi la festa abbiamo fatta Berlusconi. Finissima, però, che questo sia stato chiaro. Io poi ascolto quello che dice Fini. Chi ha ascoltato Lei parla di Perugia è molto chiaro. Ma vuol dire, una volta che Berlusconi si è dimesso, o c'è il Berlusconi bis, oppure ci può essere anche altro? Ma questo dipende molto dalle situazioni. Dunque voi non escludete che ci possa essere qualcos'altro? Noi abbiamo chiesto a Berlusconi di farlo. Se Berlusconi invece non ha intenzione, che succede? Vedremo quello che succede in Parlamento. Non credo che in questo momento nessuno abbia la palla di cristallo per No, certo, dire. Però io potrei ripescarle. Poi è una cosa un po', Parenzo, che non mi va di fare. Allora Raisi non c'entra niente. In realtà Fini più volte ha detto, anche nel 94, eccetera, che se un governo eletto si dimette, l'unica strada è quella delle elezioni. Io vorrei sapere da lei se questa cosa rimane oppure... Io guardi, sono pienamente d'accordo. Detto questo, sa, vuol dire, in politica siamo abituati a sentire tutto e contare tutto. Finisce, per questo ha anche detto che non verrà mai più un caffè con Bossi, domani si incontrano. Quindi voglio dire, in politica si prevale il buon senso e la responsabilità di fronte a certe situazioni, per cui Ma un governo diverso da uno guidato da Berlusconi, secondo lei è possibile o no? Cioè, guardi, lei lo può immaginare o è un'eresia? Posso immaginarlo se ha uno scopo specifico, è quello della legge elettorale, altrimenti non vedo altre soluzioni. Ma non è che uno fa un governo per la legge elettorale, Risi è una persona intelligente, un governo per una legge elettorale è una cosa assurda, la legge elettorale si fa in Parlamento, non è che si fa un nuovo governo per fare la legge elettorale. Sì, però ci vuole il tempo per farlo, no? Cioè, vuol dire, tutti dicono, compresi voi operatori dell'informazione, che questa è una legge che fa schifo, è una legge che non ha dato... Cambiatela in Parlamento con questo governo, si può fare anche da qui alle elezioni. Senti, guardi, l'altra volta questa legge io c'ero in Parlamento, l'abbiamo cambiata in un mese e mezzo, quindi vuol dire, appunto, non è che ci vuole molto. È strano che oggi Fini dica che questa legge fa schifo quando lui stesso l'ha votata qualche anno fa, anche voi. Ma guardi, il primo che disse che era una porcata era stato il suo ideatore, Calderoli. Quindi voglio dire, è conseguenziale a quello che l'hanno detto in molti, nel senso che è stata fatta una legge che sembrava garantisse la stabilità in questo paese, come ha dimostrato il governo Prodi, con questa legge è durato 2 anni. Noi siamo qua dopo 2 anni e mezzo che stiamo litigando, mi sembra che quello scopo... Dunque lei si pente di averla votata, lei era in Parlamento? Io ero in Parlamento. L'ha votata? Io sono uno di quelli che dice che non è una delle peggiori leggi possibili, quindi sono pentito. Dico che effettivamente quello che doveva essere lo scopo principale, cioè di dare stabilità, effettivamente non l'ha raggiunto, ma secondo me per un problema a monte, cioè era una legge fatta per un sistema bipolare, anzi bipartitico. I due grandi partiti, cioè il PD di Veltroni e il PDL di Berlusconi, non ci sono più. Senta, una cosa prima del traffico: lei all'interno di Futuro e Libertà, adesso non è che sto dicendo che siete divisi, in questo momento marciate più o meno uniti, però c'è una geografia politica anche lì dentro. Lei dove si piazza? A sinistra, al centro o a destra? Io guardi, mi piazza Confini. No, ho capito. Ci sono quelli di sinistra, no? Poi ci sono quelli un po' più. Granata, diciamola, esatto. Sì. Se Granata è a sinistra, è quello più oltranzista a sinistra rispetto lei rispetto a Granata è più com'è? Come si piazza? Ma guardi, io veramente non vorrei essere, come dire, giochiamo un po', Raisi, giochiamo un po' su questo. No, voglio dire, per alcune cose sono oltranzista e per altre mi sento moderato, dipende. Io sono uno che spera alla fine della legislatura, per esempio, no? Viceversa sono molto intransigente sul tema della legalità, questo sì. Dunque un po' Granata e un po' moffa, diciamo, lei è un po' così, un po' Granata e un po' moffa. Vabbè, esistono anche animali politici di questo tipo, senza offesa naturalmente. Traffico, torniamo subito. Sì, lo so che va di male in peggio. Sì, lo so, qui è tutto un arrembaggio. Qui si dice tira a campare. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24, da Roma David Parenzo, sempre da Roma immagino, l'onorevole Raisi, Futuro e Libertà. C'è stata una discussione surreale eppure fantastica ieri al Consiglio regionale della Lombardia, caro Parenzo, dove un deputato, un consigliere dell'Italia dei Valori ha fatto un intervento. Si parlava di sex addiction degli anziani. Sex addiction degli anziani, senti, questo si chiama Sola, questo consigliere dell'Italia dei Valori. La sex addiction la definiamo ipersessualità, cioè avere sesso come pensiero predominante. A detta di molti esperti sono connotazioni simili alla dipendenza da droga o alcol. Non colpisce fasce delimitate, può colpire chiunque, giovani e meno giovani, personaggi di grande responsabilità, una manifestazione patologica che può colpire persone molto anziane, magari con l'ausilio di un trattamento esogeno che li porta a stare con ragazze minorenni. L'osservatorio regionale deve monitorare la dipendenza dal sesso, il tutto tra risate e Laminetti che a un certo punto è uscita dall'aula. E lo stesso Solo, dopo vari interventi, tutti seriosi, dice questa sex addiction potrebbe colpire persone a noi molto vicine, dei nostri conterranei lombardi. Lo voglio chiamare perché è un pezzo di comicità sublime. Grande Sola. Allora, Raisi, io voglio capire una cosa: entro lunedì viene ritirata questa delegazione. Poi Berlusconi si deve dimettere, secondo lei, oppure se la può cavare con un rimpasto? Secondo me, se vuole fare quell'operazione che dice vuole fare, cioè il patto di legislatura e l'allargamento di UDC, si deve dimettere e fare un governo su quel che faccia un patto chiaro per tutti, per gli italiani, per noi, per tutti quanti, e su quello andare fino a fine. Cioè, vuol dire, il ritiro della delegazione di Futuro Libertà, che è certo, perché è certo, diciamo la verità, obbliga Berlusconi alle dimissioni, secondo lei? No, non lo obbliga, perché lui può andare avanti come vuole, lui non obbliga, però, lui ad essere... Però secondo lei è quasi obbligato a dimettersi. No, nel senso che lui può anche rimanere così, però dopodiché noi non abbiamo più alcun vincolo da questo punto di vista. No? Cioè, per esempio, potreste votare la mozione di sfiducia del Partito Democratico che oggi ha annunciato Bersani? Lei la voterebbe? Guardi, io no. Cioè, mai, io mai voto, una mozione di sfiducia presentata dall'opposizione non la voterebbe mai? No, non ho capito perché devo votare per le posizioni di altri. Cioè. Se penso che vada sfiduciato, la presento io, scusi, perché devo presentare? No, può succedere che uno presenta una mozione di sfiducia in Parlamento, poi... Mi sembrerebbe un po' anomalo che io, che sono stato in maggioranza, che sono ancora attualmente in maggioranza, voti una mozione di fiducia a minoranza, troverei un po' imbarazzante. Ecco, ma dopo il ritiro della delegazione, se Berlusconi continua ad andare avanti, potreste essere voi a presentare una mozione di sfiducia, questo pure mi sembra difficile. Secondo me un concetto molto più semplice è che noi a questo punto abbiamo mani libere. Cioè, ma questo già, se già li avete votato là, ieri delle cose con il Partito Democratico. Su. Ma guardi, scusi, che abbiamo votato un rispetto nell'accettare la politica di respingimento del governo. Sì, ma ho letto molte stupidate. Al di là della sostanza, Raisi, è chiaro che c'è un segnale politico. Abbiamo votato semplicemente la richiesta che la Libia rispetti i diritti umani nei confronti di coloro che vengono respinti, punto. Dopodiché è un voto che in questo caso è toccato a noi. Io mi domando, a luglio un voto analogo è toccato alla Lega quando ha fatto andare sotto il governo sul tema delle quote latte, e non ho capito questa disperazione, no? No, ho capito, però lei sa benissimo che c'è, diciamo, anche... che all'epoca noi eravamo obbligati comunque a chinare sempre la testa, la Lega, ecco, no, appunto. Adesso siamo in due, no? Che non chiniamo la testa. No, bene, però... Scusami, cioè, Cruciani, su dimmi. Questo... Su questo ha ragione Raisi. Sì, ma ragazzi, ma non dobbiamo, non dobbiamo sì, ma no, non dobbiamo pensare, ma lascia perdere la quando Libia. Si tratta con tu ne fai una questione di sostanza, non c'è nessuno. Sì, di Ghisa. Ma d'accordo, quello che vuoi, ma in questo caso non c'entra niente l'oggetto del contendere, sono no, non esiste questioni solo la politica politica. Ma invece in questo caso sì, le scelte dei diritti umani, prego, abbiamo un capo del governo che è intervenuto personalmente per mantenere in Italia una clandestina che è fra l'altro precedenti penali, no? Che si chiama Ruby. Sì. Dopodiché, se si chiama Mustafa, no? E casomai è uomo villoso e un po' postolente, ce ne freghiamo che fine fa in Libia. Allora, questo è il tema che in qualche modo si discute. Ma Maroni ha detto che è tutto regolare, lei non ci crede, ha detto che è tutto a posto, no. Il caso è chiuso, e tutto si è svolto regolarmente. Lei invece contesta questa rimane a tutt'oggi, fra l'altro all'epoca era minorenne, quindi si stava anche, non poteva essere spinta. Sì. Comunque oggi mi risulta sia ancora in Italia. Sì, ma un permesso di soggiorno. A 18 anni, professor Giorgio, chi gliel'ha dato? Gliel'hanno dato per motivi giudiziari, gliel'hanno dato. Ah, va bene. Che lavoro fa, scusi? Che ne so, fa quello che fa, la cubista, che ne so, fa le serate. Che lavoro fa? Fa le serate a 10.000 euro a botta. Allora, vuol dire che ti chiami Ruby, hai permessi di soggiorno. Ti chiami Mustafa, ripeto, ti viene cacciato via, giustamente, perché la legge va applicata contro i clandestini, però perlomeno abbiamo la garanzia. Perché lei dice che Berlusconi ha fatto in modo di far avere il permesso di soggiorno a Ruby? Ma lei ha mai visto un presidente del governo? Il presidente del governo ha mai intervenuto nei confronti di Mustafa? Ma che ne so, no, credo di no. Ma è generoso Berlusconi, lo sa, magari è intervenuto. Appunto, io, oltre a Ruby, c'è anche Mustafa. Mustafa, perché non è mai intervenuto? Qualcuno lo deve spiegare, no? Dunque, secondo lei, per me. Generosità per tutti, no? Beh, d'accordo, però il permesso di soggiorno, secondo lei, c'è anche lo zampino di Berlusconi nel permesso di soggiorno alla signorina Ruby? Non lo so, io prendo atto che è una cosa che sicuramente posso dire è straordinario rispetto ai tanti clandestini che sono in Italia, no? Cioè, per il fatto che questo dei precedenti penali, stia attento, cioè, non è che... Beh, sono precedenti penali, credo che abbia un processo, un procedimento in corso. Per furto, una denuncia. Perfetto. Comunque Cioè lei dice dovrebbe essere, nel senso che ha delle secondo lei dovrebbe essere espulsa, questo è a regola, dovrebbe essere espulsa. Se la legge è quella che mi ricordo io, si chiama Fini Bossi, dovrebbe essere espulsa. Io non ho sentito un leghista che abbia detto questo, ad esempio, no? Anzi, Maroni dice che è tutto regolare. Un leghista che abbia detto al signor Rubi se ne deve andare a casa. Senta, ma una curiosità, Califano, così per chiudere in bellezza con un argomento che non c'entra niente, non è sempre stato considerato uno di destra o no? Uno dell'area vostra più o meno, no? Califano. Vabbè, sinceramente non lo so. No, non lo so. Vabbè. Sicuramente non era un cantautore di sinistra, ecco, ci voglio dire. Quello... Perché una volta dava di moda dire noi cantautori. Ma lei gliel'avrebbe dato l'assegno a Califano, uno che ha sperperato tutti quei soldi, no? No, sinceramente no, perché c'è tanta gente indigente in Italia. Mi deve spiegare che uno che ha avuto tutte le fortune che sono passati davanti, per quale motivo oggi. Polverini mia, che hai fatto? Vedi il buon Polverini, forse mi hai a dare i soldi a qualche poveraccio che c'è a Roma, ce ne sono tanti che hanno più bisogno di lui e hanno goduto meno della vita rispetto a lui, no? Grazie Raisi, grazie, molto gentile. Voi. Dove andiamo? Di giornale radio. E a questa volta me la Siamo qui 19:19, caro Parenzo, con la Zanzara che riprende di gran carriera con i titoli del TG. Te dove sei che sento un rumore? Sono qui con lo scenografo del Titanic. Sì. Quando iniziate? Sì. Ancora siamo in attesa. Quando, adesso non lo so, adesso quando iniziamo col Titanic? Non lo so neanche io quando cominciamo. Come non lo so neanche io. Vabbè, ma insomma, siete messi malissimo, titolo del TG3 è una vergogna, via. Gianni Letta pessimista sul futuro del governo, le prospettive si restringono, domani Futuro Libertà potrebbe lasciare l'esecutivo. Bersani pronti a raccogliere le firme per la mozione di sfiducia al governo, intanto via libera quella contro Bondi. Il magistrato dei minori contesta la ricostruzione di Maroni sul caso Ruby, non autorizzai l'affido, il ministro caso chiuso. Straripano i fiumi nel Salernitano, un migliaio di sfollati, 14 comuni senza acqua potabile, Napolitano nel Veneto alluvionato. 300 milioni di euro per il Veneto, l'annuncio del Premier che dice sulle contestazioni i giornali mentono, ma Zaia si scusa. Esplode la rabbia degli studenti britannici contro l'aumento delle tasse universitarie, occupato il Palazzo dei Conservatori. Con il TG3 lungo le strade di Pompei, la città antica cristallizzata dalla lava, ora a rischio crolli per l'incuria umana. Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste. Il maestro Parenzo! Se sono in forma suono forte. Maestro Califano? Non l'hai riconosciuto? Tanta roba, E qui c'è bisogno di un riassunto, perché oggi Califano era ovunque. La nuova rubrica è Califano cerca casa. Califano cerca casa. Te lo dico io, amico mio. Califano, cioè io volevo fare casa io a Califano. Preferisco darla a un rom, però te lo dico poi. Addirittura. Preferisco un rom a Califano. No, ma lascia. Sì. Questo ma no. Tutto questo. Bene, ma perché voglio tutelare la sua immagine, solo per questo. Allora, dove andiamo? Torniamo all'inizio. Datemi qualcosa su Califano, che ieri alla Zanzara. Innanzitutto non ci ha voluto rispondere su quanto paga di affitto, perché il problema poi è quello: pare che paghi un affitto spropositato nella casa in cui è, per cui insomma, siccome è una situazione che vada in un monolocale. Sentite come ci ha risposto su quanto paga. Adesso sto in affitto. Pago un sacco di soldi, no, sono cazzi miei quando pago. Faccia una donna che un sorriso mi fa. Hai capito, sì. Sono cazzi miei. E poi i soldi, no, in realtà adesso diventano nostri. Ma infatti non sono solo, sono nostri. I soldi, quelli della legge Bacchelli, li voglio dare in beneficenza, a parte che non ci credo, comunque li voglio dare in beneficenza. Che a me dei soldi non me ne frega niente. Io questo sussidio, se ci sarà, lo darò in beneficenza davanti ai fotografi e ai giornalisti. Io non voglio soldi. Se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. E vabbè, insomma, eravamo arrivati al fatto che lui i soldi li dà in beneficenza e vuole la casa. Vuole la casa dalla Polverini, da non so chi, dalla regione, dal comune, dalla provincia, non lo so. Una casa deve venire fuori perché tra 3-4 anni muore, dice. Per passare gli ultimi anni della sua vita. Perché ha un passato inguardabile, ha speso tutti i soldi. Io, il mio passato è inguardabile, non è che se uno spende è di manica larga conta i soldi. Tanti, tutti quelli che ho guadagnato, io guadagnavo e spendevo. Ora mi basta la mia libertà. Voglio una capanna, dice lui, però non una qualsiasi, me la scelgo io. Via. La casa ancora non me l'ha data, primo. La casa si deve ancora cercare, secondo. Terzo, non è detto che quella che trovino mi piaccia. Beh, certo, che lei parla di dignità e di cosa, lei si accontenta di chiedere. No, io non mi accontento un cazzo. Se la casa mi piace me la prendo, se non mi piace non me la prendo. Hai capito, sì. Oggi alla vita in diretta, perché poi naturalmente adesso inizia il tour. Una casa, via, sempre sulla casa. Più che il panino, preferirei un punto d'appoggio fra qualche anno. Una casa, ecco, che non ce l'ho. Come perché stai? Qui si punta molto sul mangiare, il vitalizio mensile, no, quello mi interessa molto poco. Affronto la mia sorte. E poi chiede pure scusa ai lavoratori. Se non amo, grido a passi. Chiedo scusa a tutti i lavoratori che guadagnano meno di me, e sono tanti. Chiedo veramente scusa a loro, non volevo offendere nessuno. Io mi sono sfogato in quella telefonata e basta, tutto là. Non so a chi si riferiva con la telefonata, mi sono sfogato, eccetera. Forse. Libertà che mi appartiene. Una fine drammatica, l'epilogo drammatico di una grande carriera, di un grande talento. Poi c'è addirittura adesso l'idea di una canzone per Sanremo, perché poi tutto quello che è successo in realtà è un grande spot per se stesso. Non dico che sia tutto studiato, perché non è mai tutto studiato, però alla fine produce, no? Inviti, si rimette in moto un circolo virtuoso. Sì. E chissà, magari Sanremo, basta che non tirano fuori i soldi noi, dici, no, può andare bene, basta che non tirano fuori i soldi. Esatto, no, può andare benissimo, un genio della pubblicità, certo. Basta che poi, insomma, non rompa le balle sul tipo di casa che vuole, dice, no, 80 metri quadri è poco, 120, no, deve essere in centro e no, a Garbanella, voglio la cucina di Monte Carlo, cioè... Qui cos'è? L'ufficio Polverini cos'è diventato? L'ufficio Califo? Califo cerca casa, ma che roba è? Canzone... C'è anche la gente che ci ascolta. Canzone per Sanremo. Ti piacerebbe proporre una canzone per il Festival di Sanremo? Ma non so, io ne ho fatta una con Lavezzi, ma non so se Lavezzi partecipa. Ma Lavezzi, l'hai scritta insieme a Lavezzi? Tu hai scritto il testo e lui la musica? Sì. Ho capito, ma la state proponendo a un cantante oppure Lavezzi stesso? No, deve farla lui, che la fa bene. Avete intenzione di presentarla, dico, quella lì? Sì, insomma. Sì, io sì, lui lo so. Libertà. Vabbè, insomma, propone addirittura Lavezzi, attaccante del Napoli, per Sanremo. Ormai siamo alla pubblicità più spudorata. 800 24 00 24, qualcosa su Pompei. Allora, vorrei sapere da Parenzo se secondo lui Bondi sa da dimettere oppure no sulla vicenda di Pompei, del crollo di Pompei. Doveva dimettersi ieri, è già tardi oggi. Come? Doveva dimettersi ieri, oggi è già tardi. Cioè, si dimette o no? Non ho subito capito. Ma ieri. Vabbè, doveva dimettersi. Però, scusa, adesso subito, lasciamo. Ma possibile mai che non ci sia un responsabile? Crolla. Quando è che un ministro si deve dimettere? Dimmi tu, quando è che uno si deve dimettere? Sì, ho deve capito. Però lo sappiamo, sì, però lo sappiamo che su Pompei la responsabilità, scusami, non è dei ministri, eccetera, è della è anche dei ministri, naturalmente. Dei funzionari, della malagestio. Ho capito. Scusami, il ministro Scajola, l'ex ministro Scajola, per ben due volte, poverino, si è dimesso quando disse che Marco Biagi era un rompicoglioni. I giornalisti pubblicarono questo, i giornalisti del Sole, tra l'altro, fecero lo scoop, anche, sì. E pubblicarono la notizia. E lui fu costretto a dimettersi perché aveva usato parole fuori luogo. Vabbè, ma questo non è un paragone che tiene, questo qua, non c'entra certo niente. Che tiene, perché c'è una responsabilità morale e politica di chi gestisce un ministero. Sì, d'accordo. E poi si è dimesso per la vicenda della casa, pur avendo dicendo. Dunque, di secondo te, se crolla una roba a Pompei, comunque è colpa del ministro. Scusa, beni culturali, sì. La tutela di quel patrimonio. Vabbè, sì, se ne può discutere, però sai che i mali di Pompei. No, ma allora, quando uno si deve dimettere? Giro la domanda, te la giro a te perché io non lo so. Quando è che allora uno si deve dimettere? Ma che, quando si dimette? Quando ci sono mille altri casi, ma non è che la gestione di un sito. Non lo so, la gestione di un sito. Il crollo di un sito. Sì, il crollo. Uno dice è stato sfigato, è crollato proprio quando c'è il ministro, però. È stato sfortunato, però un segnale ci vuole. Veltroni, senti Veltroni come la mette? È la metafora dello sfarinamento dell'Italia. Addirittura vogliono fare il Gran Premio a Roma, poi, che non c'entra niente. Veltroni. Appunto, bravo. No, non c'entra nulla. Non c'entra... Comunque, Veltroni. Quel crollo racconta come una metafora lo sfarinamento del nostro paese e anche la sua trasformazione. Crolla Pompei. E si immagina di fare una gara di Formula 1 nel cuore della città di Roma. Ma certo, cari ascoltatori, parlava di Mario Lavezzi, non di Lavezzi, attaccante del Napoli. Mario Lavezzi. Borsa. Allora, tanto per spiegare agli ascoltatori, caro Parenzo, non sanno che io e te, prima della trasmissione, sì, sulla vicenda di Califano, abbiamo detto, hai visto questa cosa che ha detto su Lavezzi? Adesso io, quando sono in onda, dico che non è il compositore famoso Mario Lavezzi, ma è l'attaccante del Napoli. E vedrai che cosa mi dicono: ignorante, bestia, non capisci nulla, vattene, non è Lavezzi attaccante del Napoli, anche perché c'ho qua l'agenzia davanti a me e sto seguendo casa Califano minuto dopo minuto. E vabbè, rimettiamo questo Lavezzi con Califano. I giochi li dovete afferrare un po', via, non era facile, devo dire, però era una provocazione, vediamo un po', dico la verità. Ormai tu, essendo anche un volto di controcampo, capisci, quindi loro hanno mi hanno associato, hanno equivocato. Vabbè, Lavezzi, via, Mario Lavezzi, chiaramente, compositore, vai. Ti piacerebbe proporre una canzone per il Festival di Sanremo? Ma non so, io l'ho fatto una, ho fatta una con Lavezzi, ma non so se Lavezzi partecipa. Ma Lavezzi, l'hai scritta insieme a Lavezzi, tu hai scritto il testo e lui la musica? Sì. Ho capito, ma la state proponendo a un cantante oppure Lavezzi stesso? No, deve farla lui che la fa bene. Avete intenzione di presentarla, dico quella lì, sì, insomma. Sì, io sì, lui lo so. Va bene, 800 24 00 24. Enrico da Prato, buonasera. Salve, buonasera Cruciani. Dica. Buonasera, senta, volevo intervenire io perché mi chiedo come mai ultimamente, in questi ultimi giorni, lei è così fazioso, sembra quasi, come dicevo nell'intervento alla sì, collega, che sia l'avvocato difensore di Berlusconi. Sì, no? peccato che nei giorni scorsi mi hanno detto anche delle cose esattamente contrarie. Ma io Enrico, esattamente l'opposto, quando ho parlato sì, di Rubi, di tutta questa storia, mi dicevano l'opposto. Ma stasera proprio non mi sembrava, no? E in che cosa sarei l'avvocato difensore di Berlusconi? In che cosa, per esempio? La domanda che ha fatto per esempio a Raisi sulla votazione, sulla mozione ieri della sfiducia, no? Parlamento. Quale mozione di sfiducia, scusi? Le tre mozioni che sono state votate da Futuro e Libertà insieme all'opposizione, no? Ieri sera intanto l'ha fatta passare come se fossero una cosa insignificante, invece hanno contenuto. Ha tagliato corto dicendo si parla di Libia, ma insomma non entriamo nel dettaglio. No, ma io ho detto non entriamo nel dettaglio perché fortunatamente Raisi ha spiegato abbastanza. Sì, Enrico, bene, se lei pensa che in questo momento la battaglia politica si faccia sull'ONU in Libia, sull'ufficio dell'ONU in Libia, lei si sbaglia. Berlusconi 10 giorni fa ha detto che in 5 giorni avrebbe ripulito Napoli. Vabbè, per la seconda volta. Vabbè, ma che questo che c'entra? Vabbè, ma cosa c'entra adesso con la Libia? Cosa c'entra? Ma c'entra con la concretezza del. Ma questo è un discorso generale su Berlusconi che possiamo fare, ma non c'entra niente con. Lei ha esordito dicendo io faccio l'avvocato difensore di Berlusconi. Ma dove? Su che cosa? Che cosa dice? Mi porti delle prove? Di che cosa sta parlando? Rintuzza sempre. Ma io rintuzzo chi è di Futuro e Libertà. Ma io rintuzzo quelli di Futuro e Libertà perché è mio ospite. Perché è mio ospite, gli devo fare delle domande un po' scomode, no? Altrimenti che cosa ci sto a fare qua? Ma sì, ma il diritto all'informazione è il dovere dell'informazione. Vuol dire, gli paragona. Non arriva alla fine del suo intervento con l'ospite se non l'ha accomunato a un esponente del PD, qualunque esponente di Futuro e Libertà. Enrico, ma di che sta dicendo? Ho detto, è un fatto o non è un fatto che ieri il Futuro e Libertà ha votato delle mozioni insieme al Partito Democratico? Sì, punto, basta. Questo è un segnale politico evidente, no? Il fatto che hanno mani libere in questo momento, si sentono di avere mani libere nei confronti del governo. Non ho detto mica che sono dei criminali, ho detto semplicemente. No, e allora? Sto dicendo, allora dov'è l'avvocato difensore? Se Berlusconi avesse bisogno ma che di avere c'entra l'avvocato? Ma che c'entra l'avvocato difensore di Berlusconi? Enrico, il punto finora, è solo uno. Se uno non dice che Berlusconi è un mafioso, un criminale, se uno non dice che Berlusconi è un mafioso, un criminale, un poco di buono, uno che se ne deve andare a calci nel sedere, uno che non fa niente, se uno non dice questo, allora è automaticamente messo tra i berlusconiani. Passo indietro, io ho votato le ultime elezioni Berlusconi, allora voglio dire, non sono, però secondo me è lampante che forse è arrivato veramente il momento di farsi da parte. Benissimo, questa è la sua opinione, non è la mia, ma io sono non è la mia opinione, ma io automaticamente sono berlusconiano, automaticamente sono avvocato. Ma se questa non è la mia opinione, io automaticamente sono un avvocato difensore di Berlusconi, non me lo spieghi? No, me lo spieghi, me lo spieghi. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra che sono il conduttore in questo caso? Tutte le campane. Ma infatti lei sta parlando, è una campana lei oppure non è una campana? Sì. E allora, appunto, lei sta... che è stato rintuzzato. Ma Raisi è di Futura Libertà, ma si rende conto di quello che dici? Io chiamo uno di Futura Libertà e mi sta dicendo che sono l'avvocato difensore di Berlusconi, ma dico, ma di che sta parlando? Cioè io chiamo Raisi a parlare di Berlusconi e lei mi dice che io sono l'avvocato difensore di Berlusconi. Parlo Raisi a parlare sostanzialmente male di Berlusconi, io comunque un oppositore. No, non mi sembra Raisi abbia parlato male. Vabbè Enrico, lei allora è lei che non vuole vedere la realtà, non male, nel senso che è ormai un avversario politico di Berlusconi. Se invitava Granata probabilmente quando fa male. Raisi è un oppositore politico di Berlusconi oggi. Oggi, appunto, dov'è l'avvocato difensore di Berlusconi? Cosa? Cioè di cosa sta parlando Enrico? Lei fa l'avvocato difensore di Berlusconi. Io mi imbestialisco su una cosa del genere, perché sono delle tali follie, delle cose talmente folli e inenarrabili, quelle che lei sta dicendo, che non so come risponderle, francamente. Cioè, quando ho parlato della vicenda di Rubi, della telefonata, di altre cose, Parenzo mi è testimone, abbiamo fatto giorni e giorni a dire che Berlusconi ha sbagliato, che non doveva fare questo, che non doveva fare quest'altro, che la brasiliana col telefono, eccetera. Certo. E mi dicevano, sei diventato anti-berlusconiano, eccetera, eccetera. Si fanno domande, Dopodiché, siccome ogni tanto... microfono, scusa. Ma non ho capito, Enrico, dov'è la critica? Non me la spieghi questa cosa dell'avvocato difensore? A parte che non faccio l'avvocato, secondo non devo difendere nessuno, terzo Berlusconi non ha bisogno di me per difendersi. No, era soltanto una considerazione, visto che seguo molto spesso la trasmissione, l'ho sempre trovato piuttosto misurata. Ma non c'è misura, qui non siamo misurati, se lei mi dice che sono misurato mi offendo pure, io non sono misurato. Il gruppo è indifendibile. Che chi è indifendibile? Ma secondo lei è indifendibile? Ma secondo lei è indifendibile? Allora, se uno... secondo lei, ma perché? Ma dovrebbe... Io non dico è indifendibile, ma dipende da che cosa si parla, non è che in generale dico indifendibile. Ma io stavo parlando di una cosa che lei ha detto, cioè cosa? Definito compare Rubi. L'ha attaccato Berlusconi e così via. Sì. D'accordo? No, ha attaccato. Ho detto che Berlusconi aveva sbagliato a fare quella telefonata. Ha fatto e quindi non è stato. Quelli però erano più contenuti gossipari. Ma come gossipari? Che vuol dire gossipari? La telefonata non è una cosa gossipari. L'abbiamo messa sul piano istituzionale. Per cui gossipari, che vuol dire? La ragazza, i bunga bunga e così via. Però parlando di cose politiche, secondo me sono un po' più serie, purtroppo. Per quello, ecco. Parlando di cose politiche. Come? Sì, parlando di cose politiche mi dico. No, dice, parlando di cose che hanno uno spessore forse un po' maggiore, mi sembrava che dovesse risistemare gli equilibri. Ecco, ma queste qua sono dietrologie sue, non so. Non per carità, ma io che lei è un nostro ascoltatore, dunque noi siamo. Ma ripeto, ho chiamato perché apprezzo la radio. No, la ho capito, però voglio dire, non sia troppo dietrologo su, dietrologo su queste cose. Non è che io non c'è né la difesa né l'attacco, ha capito? Non c'è né difesa né attacco. Il cambio che avete avuto nella trasmissione all'inizio dell'estate, quando l'avete buttata sullo scherzo e sul ridere, tra virgolette, prima con Telese e poi con Parenzo, no? Mi sono domandato anche come mai questo cambiamento in una trasmissione che era più di informazione. Sì. E poi realmente avete visto giusto, perché la politica deve essere trattata come la state trattando, come l'avete trattata finora. Ecco, mi sono permesso di esprimere la mia opinione, non volevo offendere nessuno. Se si è sentito offeso me ne dispiace, penso che non rimanga offeso dalla mia opinione. Ma no, no, espresso no, quello che pensavo. No, ma noi non siamo tutta la mia stima. Solo che la parola avvocato, per carità Enrico, ma va benissimo, però quando io sento avvocato difensore di Berlusconi vado mi parte la vena. Grazie Enrico. Tonino da Roma, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, salve. Senta, io volevo fare un intervento su un'altra cosa, ma se me lo consente vorrei dire una cosa sulla questione di Bondi, se posso. Prego, dica. Allora, no, io mi immagino una situazione analoga a quella di Bondi in Inghilterra, no? Mettiamo che il ministro dei beni culturali inglesi in Inghilterra crolla un'ala del British Museum, lei lo sa che cosa succede, sì? Non è la stessa cosa. No, come non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa. Come no? Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Tenga conto che... Guardi, a me non me ne frega niente di Bondi, se lei pensa che i problemi di Pompei o dei problemi dei beni culturali italiani, dell'amministrazione dei beni culturali si risolvono con le dimissioni di Bondi, benissimo, no, ma si dimetta pure Bondi, a me non me ne può fregare di meno di Bondi, ha capito? Non me ne frega niente. No, ma lo so che a lei non frega niente, però no, prima non me ne le responsabilità non sono solo sue. No, ma io dicevo che la vicenda di Pompei è lo specchio di come vengono amministrate le cose in Italia, in particolare al sud, punto, anzi, soprattutto al sud, i beni culturali d'Italia. E allora, appunto, che poi Bondi non abbia preso di petto la vicenda Pompei, per dire, benissimo, rivoltiamo come un calzino Pompei, d'accordo, ma questo non hanno fatto nemmeno i ministri dal 45 a oggi, se vogliamo esagerare. Questo è, certo, Bondi non è che ha detto, bene, c'è un problema di Pompei, pigliamo e rivoltiamo come un calzino Pompei, no, non l'ha fatto, questo è vero. Ma Pompei in Italia è il secondo sito. Ho capito, ma se vogliamo dargli questa responsabilità di pagare per tutti i ministri italiani, facciamolo pure, va benissimo. Però non è che Bondi è responsabile del crollo di Pompei, perché questa è una stronzata. Guardi, o no? Questo in qualsiasi paese civile non sarebbe una stronzata. No, ma vabbè, ho capito. Allora, perché a Pompei sono arrivati, mi pare, 2 milioni di euro l'anno scorso. O due sì, anni ma fa, lasciamo perdere i soldi, adesso quelli sono arrivati. Bisogna controllare, caro dottor Cruciani. Sì, guardi. Mi sembra un fatto di civiltà, non è sì, un fatto sì, di... Sì. Tenga conto che io, in un paese civile, io sarei io voterei centrodestra. Vabbè, ma adesso che c'entra? In un paese civile voterei centrodestra perché non c'è Berlusconi. Questa la vicenda Bondi non c'entra niente. Anzi, lei dicendo questa cosa mi conferma che la vicenda di Bondi è una vicenda strumentale, che non c'entra niente con l'oggetto della discussione. Cioè, quelli che hanno il governo, che vedono il governo come un fumo negli occhi, vorrebbero le dimissioni di Bondi. Quelli invece che sono a favore del governo, più o meno, dicono no, perché si deve dimettere. Cioè, questo è. Io sono un elettore di centrodestra. Sì, però ho grandi difficoltà in questo paese, perché noi in Italia un centrodestra non ce l'abbiamo, cioè, perché voglio dire, e questo magari adesso rivengo all'intervento che volevo fare in precedenza. Mi volevo collegare un po' alla questione di Toscani ieri sera, non sono fuori tempo. Dica pure. Allora, no, la questione è questa, che Toscani secondo me in qualche modo aveva ragione, nel senso che non è tanto, come dire, il Grande Fratello, i programmi, questi grandi format internazionali che ci sono in tutti i paesi del mondo, quindi, come dire, non è quello che rappresenta, diciamo, il degrado, diciamo, della questione culturale in Italia. Il discorso è un altro, che in questi 15, 16, 20 anni di, diciamo così, di berlusconismo, uno dei danni più grossi che è stato fatto a questo paese, di fatto, è la scomparsa del significato delle parole. Cioè, in questo paese le parole ormai non significano più. Bah. Cioè, si usano parole tipo anti-berlusconismo, magistratura politicizzata, conflitto di interesse. Sono parole che hanno completamente perso di significato. Vabbè, e mi dispiace dirlo, perché ho stima di lei. Vabbè, lei, ma è le parole... lei è uno degli epigoni di questa ondata culturale così. Gli epigoni di che cosa? Scusi, gli epigoni di che cosa? Non ho capito. Di questa cosa che le ho detto, della scomparsa delle parole. Parole non che vuol dire? Non ho... cioè, lei, quando qualcuno dice una cosa che, come dire, lei non, cioè, come dire, contro Berlusconi o contro, diciamo, un certo modo di fare, lei subito la classifica come anti-berlusconiana. Ma dipende da quello che uno dice, non sempre, Tonino. Questa ma è una sua io idea, non so, cioè... le ho sentito dire cose che secondo me, non so, le ho sentito dire. Per esempio, la sento annoiarsi costantemente quando qualcuno le parla del conflitto di interesse. Sì, è vero, mi annoio. Sì, ma non mi annoio. Anche adesso, appena lo sento mi annoio. No, lo so. Mi prende la noia, Tonino. Che noia. Quello che non è comprensibile, quello che io non ho capito, e credo che tanti ascoltatori non abbiano capito, è lei che cosa ne pensa del conflitto di interesse? Ma Tonino, se lei non ha capito, significa che non è che io o mi spiego male io oppure lei ascolta male la trasmissione. Io ho sempre detto che Berlusconi è un'anomalia in questo paese, punto. Che esistono evidentemente dei conflitti di interesse che riguardano Berlusconi, non solo Berlusconi, ma soprattutto Berlusconi. Punto. Dopodiché, dopo 15 anni, si può anche non parlarne più. Cioè, poi si può anche parlare quando si verificano, eccetera, se ne parla ampiamente. Dopodiché, poi non è che si può parlare ancora del conflitto. Io questo ho detto, mi annoia profondamente un discorso quando qualcuno dice: beh, c'è il conflitto di interessi. Sì, beh, ho capito, beh, andiamo oltre, perché già più o meno se ne è discusso. Gli elettori votano sapendo che c'è conflitto di interessi. Punto a capo. Questo dico, Tonino, è un'eresia dire una cosa del genere, una cosa folle, una cosa da pazzi, che cos'è? Una cosa da epigoni, da ultimi giapponesi, che cos'è? Non me lo dica lei, che cos'è? Le dico subito, posso fare un iperbole? Sì, certo, può fare quello che vuole. È come se lei dicesse che un omicidio di mafia... Sì. Solamente perché è avvenuto 15 anni fa o 20 anni fa, a lei l'annoia perché ha perso, ormai sono passati 20 anni, 15 anni, ma infatti... Vabbè, è una boia, quella che lei ha detto è una boiata, ma va bene lo stesso, cioè è una boiata, non c'entra nulla, perché certamente non possiamo paragonare un omicidio di mafia, però siccome è un'iperbole, la posso accettare, me la prendo, Donino, me la posso prendere. Me la prendo, l'accetto come cosa. È una cosa come questa, è una cosa di una gravità assoluta. In un paese... Ma cosa è una gravità assoluta, scusi? È una cosa gravissima, noi siamo il paese... Ma cosa è una cosa gravissima, cosa? dire che è possibile, lei, con lei, come dire, lei contempla il fatto di poter essere un amico di un mafioso. Come amico di un mafioso? Ma che c'entra? Come amico di un mafioso? Non ho capito, non ho capito bene. Si ricorda lei sulla questione di Dell'Utri? Ancora? Ma lei mi sta andando adesso, passiamo a Dell'Utri, dopo lo ricompreti te? No, Parenzo, aiutami, ti prego, aiutami tu. No, ma infatti, anch'io su questo... Signor Toscani, mi aiuti lei? Toscani, Oliviero Toscani, mi aiuti lei? Che devo fare? Mi parlano del conflitto di interessi, della mafia, non ne posso più. Cruciani, che lei si è offeso. Si è scaldato quando gli ha detto che lei è l'avvocato difensore di Berlusconi. No, ma lo capisce, cioè... perché lei pensava che gli è andato del Ghedini. No, adesso, per carità, io ho grande rispetto per Ghedini, però adesso non mi dica che non mi offendo se qualcuno mi dà del Ghedini, per carità, è un grande professionista, però lei dice da un punto di vista, che punto di vista? Dal punto di vista estetico, no, per carità. No, mi danno del... No, bisogna offendersi solamente se ti danno dell'avvocato, già questo. Ah, solo l'avvocato, solo se ti danno. Lei se gli desse l'avvocato, tremendo, è l'ultimo della mia lista. Gli avvocati sono gli ultimi della mia lista. Ma gli avvocati servono, come diceva Totò, la serva, serve. Servono i mediocri. Ho capito, servono pure quando uno c'ha qualche guaio, no? No, ma non è vero, perché quando uno è veramente ricco, ricchissimo, ma proprio ricco ancora di più, sì, Berlusconi, non va dall'avvocato. E che fa? Ma no, mandano gli altri, non mandano. E poi quando uno è poverissimo non ha bisogno di avvocati, non ha niente a perdere. Quindi i mediocri, gli avvocati hanno sempre a che fare con la mediocrità. Vabbè. 30 secondi, torniamo subito con Oliviero Toscani. Adesso non so, Parenzo, non so se mi sono sbagliato, ma l'ascoltatore di prima aveva detto che ha votato Berlusconi, o sbaglio? Sì, ma alle volte... No, ma la cosa più paradossale è questa, adesso è scomparso dall'onda. Io anche avevo Berlusconi, ma però... Come? Dici che c'è conflitto di interessi e votavo Berlusconi? Ma dico, ma è roba da pazzi. Ha votato Berlusconi? Che strano, perché non si sa mai chi vota Berlusconi. Ecco, Toscani, lei l'ha mai votato Berlusconi? No, io non ho mai votato Berlusconi, anzi... Tutti dicono così, però, Toscani. Posso... Allora, qui io vado a fare le conferenze e domando: chi ha votato Berlusconi, alzi la mano. Non alza mai la mano nessuno. Appunto, perché solamente l'altro giorno, sì, a Vigevano, sì, a una conferenza su miti e antimiti, sì, una sala era piena, una serata divertente, ho fatto questa domanda e una persona alza la mano in fondo e dice: beh, io ho votato Berlusconi, dicendo ho votato veramente Berlusconi, e si è messo a ridere, cioè, sono l'unico di Vigevano. Ma è l'unico di Vigevano. Ma credo. È sempre così, cioè, ma perché? Perché si vergognano, secondo lei, di dirlo? Non lo so, ma siamo un po' pur di vigliacchetti, insomma, così. Ma io infatti come io per la DC, no? Come per la DC, uguale. Nessuno votava DC. Andava in giro dicendo io voto Andreotti, perché sennò si mettevano tutti si vedevano solo. Infatti i fascisti erano pochissimi, adesso sono tutti stati partigiani, ha tutti avuto il papà e il nonno partigiano. Comunque, io qualche volta l'ho detto anche in un'intervista che ho fatto poco tempo fa, invece lo dico, io è successo in 15 anni, io ho votato qualsiasi cosa, anche Berlusconi, ho votato Partito Democratico, ho votato la Lega, ho votato Partito Liberale, penso che ho votato anche una volta per la Lega, credo una comunale di Milano, anch'io ho votato con c'era Filippo Daverio come assessore alla cultura, ho votato 94. Formentini, sì, sì, sindaco nella giunta di Formentini. E come no? Nella giunta, sì, di Formentini. No, 93. Ma andava bene Daverio, ho votato per Ma guarda, la Lega ha preso un sacco di voti con quell'elezione lì, cioè, sì. Non mica c'è da vergognarsi, No, non mi vergogno. Io ho votato i radicali, naturalmente, tanti anni, ecco, poi questo è un altro problema. Poi anche qui Cruciani siamo lo 0,8%. Siamo, adesso io non voto più. No, vero, sono, io sono sempre. Lei è sempre, io sono l'unico rimasto. No, anch'io ci sono. E chi è? Chi è? Parenzo, David Parenzo. David Parenzo. Ma tu sei radicale, Parenzo? Ma no, sono radicale, ho votato, no? Radicale. Vabbè, uno che vota radicale è radicale, sennò cosa che, come fa? No, certo. Non sempre è così, i radicali dovrebbero capire che c'è anche un voto d'opinione che ogni tanto va e viene, non è che resta sempre. Beh, io sono l'unico radicale, allora, non che vota. Io il radicale. Mio primo voto l'ho dato al Partito Liberale Italiano, dopodiché ho votato radicali, votato molto vicino, ma la Godi era, no? No, era altissimo addirittura, figuriamoci un po', era proprio il Partito Liberale, quello proprio l'ultimo Partito Liberale. Vabbè, ma io non è che ho 70 anni, no, mica Toscani c'ha 70 anni, per carità, però. E abbiamo un po' di pubblicità, le Toscani può capire la pubblicità, torniamo subito anche con lei per parlare di una frase che ha fatto molto discutere noi e altre persone su internet, su Facebook, eccetera, la sua frase sugli elettori di Berlusconi che sono molto arrabbiati con lei, glielo dico subito, molte persone che io conosco, ma come, Toscani ci ha trattato male, via. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, hey, hey, basta la parte. Siamo qui alle 20 in punto. E il telegiornale di Benzolini, non saprei cosa scegliere. Vabbè, faccio una scelta. Cioè, il telegiornale di Benzolini addirittura è paragonato ad una pubblicità. Pubblicità per chi? Per il governo? No, mi dica cosa non è pubblicità, perché gli altri telegiornali non sono pubblicità. Cosa non è pubblicità? Ma pure la 7, cioè, pure la 7 di Mentana? Non le piace? Ma è logico, è pubblico, cioè si racconta delle cose, si porge per avere ascolti, per poi avere tutta la pubblicità che voi avete. Vabbè, d'accordo, però tra il TG1... Se la Zanzara non fosse fatta bene, non avremmo pubblicità. Non farebbe pubblicità a Radio 24, e ho capito. La Radio 24 non avrebbe la pubblicità pagata con cui pagano lo stipendio a Cruciani. Appunto, dunque per questo dobbiamo... E questo è il sistema. Il sistema è questo, certo. E allora, diciamolo alla gente, perché pensa che invece è tutto... Tutto è pubblicità. Io dico sempre, la Cappella Sistina era la pubblicità della Chiesa. Sì. E lo è tuttora. E noi però, se non c'è la pubblicità, qui la Zanzara, noi ce l'abbiamo tante di pubblicità, perché... ma io mi domando perché deve essere così demenziale, però l'avete ascoltata o no? Adesso, Toscano, ogni volta che lei è qui con me, che noi abbiamo un rapporto, insomma, ci stiamo simpatici e tutto, però mi crea lo sai che ogni volta mi chiamano i pubblicitari e mi dicono Toscani ci tratta male, diciamo, ogni volta ci difendono, ma dico che cosa andrà a perdere, con paura di hai capito Parezzo, ogni volta che c'è Toscani se c'è un caso diplomatico che si apre io devo stare lì, ma va bene, perché l'audience si impenna, no? C'è Toscani, si alzano, no, gli perché ascolti. Poi ha ragione lui. Ha ragione lui. Si infiamma la polemica, allora, va bene, altri investitori. Andiamo su Minzolini, lasciamo perdere la pubblicità. Allora, Minzolini. Il televisore ce l'ho nell'orto, siccome vivo in campagna, sì. Ho un orto e ho una casettina nell'orto. E nell'orto ho il televisore. E vado, e quindi non ce l'ho in casa perché inquina la casa, non va bene, bisogna toglierla. Sì. Allora, guardo soprattutto le partite di calcio, quindi stasera non vorrei far tardi. No, perché fra poco... No, perché... Quindi il telegiornale a me proprio di Minzolini o dell'altro, me ne frega assolutamente niente, i giornali, di carta. Lo immagino. E nell'orto cosa vede poi, oltre le partite di calcio? Nell'orto c'è pomodori, e ho capito, ma oltre le partite di calcio cosa vede, nel senso, niente, in televisione? Niente. Guardo mai, non guardo la televisione. No, e quando sono la sera che fa? Va anche d'inverno che fa nel giardino col cappotto, come ci va a vedere le partite? No, ma è attaccato alla casa l'orto, no? Esco, vado lì e guardo la mia partita, finito. Poi... Anche di sera, col freddo. Anche a febbraio. E sempre. Sì. Con meno 10. Vabbè. No, ma è riscaldato questa capanna. Ah, è una capanna riscaldata, come quella che vorrebbe Califano. Esatto. Infatti sarebbe, ho pensato magari dargliela a lui, solo che serve a me per ora. Ho capito, ma lo sai che Califano dice che non vuole una casa qualsiasi, la sceglie lui. Bene, neanche lei Cruciani. Lo so, però quella se la paga lei, che invece Califano gliela dobbiamo pagare noi, questa è la differenza. No, ma questa storia del cavallo donato si guarda in bocca non è vero, dai. Si guarda in bocca e dice, ma che cavallaccio che mi ha regalato, dai. Titoli di Mentana, allora, va, la 7. La crisi che accelera, domani il round decisivo con l'incontro Fini-Bossi. Persino Gianni Letta parla di prospettive del governo che si restringono. Poco fa ha parlato Napolitano. In questo clima e sotto il pressing di Di Pietro, il Partito Democratico rompe gli indugi. Bersani dà il via alla raccolta delle firme per presentare una mozione di sfiducia contro il governo. E come dicevo, il capo dello Stato ha detto che i temi concreti devono essere affrontati da chiunque sarà chiamato a governare ancora o nuovamente. Prudentissimo. Nuova tegola, non ho mai autorizzato l'affido di Rubi alla Minetti, ricorrerò al CSM, il PM dei minori Anna Maria Fiorillo smentisce la ricostruzione di Maroni in Parlamento, ma anche la versione del procuratore di Milano, Bruti Liberati. Berlusconi ne annuncia 300 milioni di aiuti subito al Veneto, sospeso anche il pagamento dei mutui e sulle contestazioni di ieri attacca, non credete i giornali vi imbrogliano, oggi Napolitano l'abbiamo visto, era a Padova. Sequestrata a Milano un'area destinata a parco in vista dell'Expo del 2015. La procura accusa, mai fatta la bonifica, è un paradiso dell'immondizia, trovati metalli tossici, diossina. Il governo inglese raddoppia le rette universitarie, esplode la protesta degli studenti, Londra sotto assedio, incidenti e scontri con la polizia, assaltata la sede dei Tories. Vabbè, questi titoli della 7 che abbiamo fatto sentire dunque. Allora, devo dire una cosa, Cruciani, su dica. Questi telegiornali. Ecco, mi dica qualcosa sui titoli della 7. No, sui titoli normalmente. Io non riesco a capire questi telegiornali con la musica, le trombe, i tamburi fra titolo e titolo. Ma che ragione c'è? Cioè, lei dice meglio togliere tutte queste robe. Ma è incredibile questo. Ma mi ha sempre molto scioccato queste trombe, queste. Ma perché questa cosa? Parenzo, a te piace? Eh? Questa è la demenza, certo, della televisione. Ma la notizia è un po' incalzante, no? Da un ma po' no, di pathos. Ma questa è la demenza televisiva. Beh, lei da artista dovrebbe capirlo, però. È da pathos, no? Da pathos. Da un po' di pathos. Lei è un artista, queste cose dovrebbe afferrare dal volo, o no? Oppure sarebbe ma meglio? No, comunque la telegiornale vuol essere mica bisogno di tamburi, le trombe, cioè, del Burundi. Ma che discorsi sono? Ma scusi, vuol mettere, scusami, ma vuoi mettere una notizia del tipo replica di Sandro Bondi su Pompei, oppure bom bom bom bom Sandro Bondi su Pompei replica, è tutta un'altra roba, no? Sì, una roba di Kubrick proprio, no? Odissea nello spazio ogni volta. Ma Toscani, secondo lei Bondi si deve dimettere da ministro? Ma su per Pompei, in generale magari sì, ma per Pompei. Insomma, il ministro dei beni culturali è lui, io non so quali siano le deleghe, le cose, le responsabilità. Comunque, se io fossi ministro mi sentirei molto responsabile. È impossibile che non l'abbia sentito che Pompei era un problema. Insomma, è incredibile che un ministro dei beni culturali non sia informato di Pompei. Ma la roba di Pompei, quello che mi ha fatto paura, ieri sera ascoltavo la radio, io ascolto moltissimo la radio, tornavo da Milano di notte, sì. C'era questa signora che ha scritto 10 libri su Pompei, a parte il fatto che era analfabeta, la solita dottoressa, che raccontava, sì, ma sa, è normale, diceva, che casca, bisogna aspettarselo, ma chiaro, bisogna aspettarselo, sì, però si può anche fare qualcosa. Questa persona che vive a Pompei da solo quanti anni, che lavora, è responsabile delle ristrutturazioni, una delle a parte il fatto che non sapeva parlare proprio, continua a dire dunque, e poi come spiegava il problema di Pompei? Uno si rende conto perché le cose crollano. Perché è troppo. Perché ci sono tanti burocrati, appunto, tanti dottori, tanta gente, ma ci vogliono i muratori, ci vuole la gente seria, ci vogliono chi sa utilizzare le mani. Insomma, questo paese purtroppo sono tutti dottori. La frase dei toscani che ha fatto discutere, andiamola, via. Non prendetevela con Berlusconi, prendetevela con questi tagliotti. Completamente rincoglioniti dai programmi teledioti, dai programmi televisivi del monarca televisivo, che ormai ha condizionato con questo virus, con questo modo di fare, di essere, di acconciarsi, di parlare, ha rovinato una cultura di un paese. Toscani, che esagerato. Una cosa così banale. Ma no, ma che banale. Una banalità unica. Ma no, su. Mi vergogno di essere così banale. No, ma assolutamente non è. Senti, così. Cruciani, quando si fanno i colpi di Stato. E chi ha fatto il colpo di Stato? No, quando quelli che decidono di fare un colpo di Stato, la prima cosa che occupano sono le sedi della televisione. Sì. È la televisione. Sì. È così, insomma, se tu vuoi avere il potere, è la televisione. Dunque in Italia c'è stato una sorta di colpo di Stato? No, assolutamente no. Però chi è padrone della televisione è al comando. Allora, però non è colpa sua, perché lui è bravissimo. Fa il gioco suo, lei dice. È logico, ma cosa deve fare? Il gioco di chi? Di Bersani? Chioio. Fa il gioco suo. È che è votato da tutti quelli che hanno vergogna di dire che lo votano. Ma non è che sono beoti gli elettori di Berlusconi, su? No, non sono beoti, però non so io. Mi domando se questo è il modo di far evolvere il paese. Ho capito, sul conflitto di interessi di Berlusconi eccetera eccetera si può discutere fino all'infinito, la televisione. No, siamo molto altruisti. L'importanza, insomma, chi vota Berlusconi è molto altruista, gli vuole molto bene, lo aiuta. Vabbè, ma non guardi che sono milioni gli elettori di Berlusconi, sono stati milioni dal 94 in poi, non è che ci sarà qualcosa in più al di là della fascinazione televisiva, di quello che racconta la televisione. Quella è sufficientissimo. È sufficiente. Sì, ormai veramente siamo la televisione condiziona l'etica, la morale, l'estetica di tutto. E dunque, io che ho votato Berlusconi qualche volta, che ho fatto? Un po' di influenza avuta, Cruciani, infatti. un po' di influenza e c'è stato. Sono stato condizionato. Tra l'altro Berlusconi lo conosco personalmente. Ma lo so, figurati. lo so. E che non pensa? Assolutamente non ce l'ho con Berlusconi. Assolutamente. Ma ce l'ho però con tutti quelli che votano Berlusconi. E figurati. Perché? Perché ce l'ha con quelli? Cioè magari c'è gente che ha sperato in una rivoluzione liberale, c'è gente che ha sperato in un Berlusconi che trasformava questo paese. Era un momento molto strano, molto importante. Io personalmente mi ricordo, mi sono presentato allora alla Bolognina, sì, contro, come si chiamava, Occhetto, sì, va bene, per il Partito Radicale, sì, che era in quel momento con Berlusconi, perché era un momento di liberalismo. Ho capito, di Berlusconi. Ho capito, ma questo momento si è prolungato anche dopo. No, mica tanto, pochissimo. No, sì, lei dice la speranza di una rivoluzione liberale. Sì, ho, sì, capito, sì. Però gli elettori di Berlusconi non possono essere trattati, come dice lei, come delle persone beote. No, lì, non li tratto così. E lei li ha trattati malissimo, come no? No, poveretti, no. Poveretti? Anche a me dà del poveretto ogni tanto. Gli dico solamente, ragazzi, che dice? Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi per capire adesso. Ma bene, i problemi dell'Italia non sono solo Berlusconi, lo sa bene, non è che via Berlusconi sono risolti i problemi dell'Italia. La generosità italiana ha aiutato Berlusconi, l'ha tolto dai problemi economici, forse un fallimento in quel momento in cui è entrato in politica. Tutta questa è una grande generosità di un paese. Beh, a questo punto però cambiamo, insomma, dai. Pubblicità, ancora una volta, poi conclusione sulla vicenda però di Rubi. Qualcosa avrà pensato lei, Toscani, queste vicende di Berlusconi, donne, festini e cose varie, oppure sono cose private di Berlusconi? Di queste sono interessanti, trovo, invece. E ne parliamo tra poco. Vivo la vita, non sia una giornata con quello che dà. Il Califfo ieri alla Zanzara in grande spolvero ci ha detto: ma no, ma io se mi danno una casa la devo scegliere, non mi possono dare una casa qualunque. Come ha ragione, Toscani? Ma gliela dobbiamo dare noi però la casa. Ma se gliela ha dato una sola non può scegliere, ma se ha 10 proposte la sceglierà. Adesso ci mancano pure le proposte, Parezza. La Polverini con le proposte davanti, sai, tipo agente immobiliare. Scelga, caro Califano, scelga, che vuole. Ai Rom, la casa va data ai Rom, non al grande Califfo. Così come siamo generosi con Berlusconi, lo si può essere con Califano, un po' lo stesso stile, in fondo. Ma veramente dicono che Berlusconi è generoso con gli altri, ma pure con Rubi è stato generoso, sembra, Berlusconi, no? Berlusconi è generoso, perché ha capito, quando è generoso riceve molto di più di quello che dà. Ma lei a qualche festa non ha partecipato mai di Berlusconi, no? No, fortunatamente no. Però questa storia di Berlusconi con tutte queste donne, alla fine il povero Berlusconi sta diventando come una malattia venerea, non so io, come un po' questo spirito. Cioè, no? In che senso? Ma sì, mi sembra un po' una malattia venerea, c'è sempre sto sesso, sta roba, deve stare attento il ragazzo. Cioè deve stare attento alle malattie, lei dice? Alle malattie venere. Vabbè, si proteggerà, comunque, insomma, io spero, perché va a finire che alla fine... Cioè il problema è quello, secondo lei, il vero problema sarà quello, dovremmo curare Berlusconi dalle malattie venere. No, non parlo di sifilide, quelle malattie che si prendevano una volta. Quali erano? Io non lo so, lo dica lei. Quello, lo scolo, lo roma, non so come si chiamino tecnicamente. E addirittura adesso... Sto mangiando! Sì, deve stare attento, perché... Lui stesso diventa un virus di malattia venere, insomma, un po' questa immagine. Cioè lei ha questa immagine qui, tutte queste storie gli hanno fatto venire questa immagine, cioè Berlusconi come trasmettitore di malattie venere. No, lui ha un look proprio, con questi capelli così, col doppio petto. Una metafora. Un po' un virus. Vabbè, ma lei mi tratta male questo Berlusconi. Ma poverino, gli vogliamo bene tutti, infatti è la maggioranza, no? Non è un paese generoso. No, però io volevo parlare di cose serie. Di che voleva parlare? Di questo progetto che stiamo facendo sul paesaggio italiano, nuovo paesaggio italiano col professor Settis. E a noi che ce frega? La prossima volta ne parliamo. Perché adesso tutti parlano del degrado dell'Italia, casca Pompei. Noi è anni che stiamo lavorando raccogliendo immagini, fotografie. Tutti possono mandare le fotografie di quello che non piace, quello che non si trova giusto. Sì, ma la conosco questa iniziativa. A chi devono mandare? nuovopaesaggioitaliano.it. nuovopaesaggioitaliano.it. Mandate che cosa? Lo dico, mandate... Le fotografie le potete fare, la possono fare anche col cellulare. Ma che tipo di fotografie devono mandare? Il senso... bisogna recuperare il senso della bellezza, ci stiamo abituando alle dunque cose mandate brutte. Le brutture, mandate le brutture, mandate le brutture, cioè le cose non finite, i monumenti rovinati, le case fatte a schiera di cementino color pistacchio che si rametti con alluminio dorato. E poi una volta che mandano le foto, che ci fate queste foto poi? Facciamo un'esposizione alla Biennale di Venezia. Quando? La prossima biennale. Ah, la prossima, la prossima. Sì, a Porto Marghera sarà dedicata a tutti gli italiani che hanno contribuito a questo. Ma guarda, Parenzo, che senti, sono una persona seria, mica siamo mica pizza fighi. Qui un ascoltatore da Lecco, Paolo, ci dice lo sfarinamento dell'Italia. Paolo da Lecco. Paolo da Lecco. Paolo da Lecco ci dice Paolo da Lecco suona bene. Un attimo, lo sfarinamento dell'Italia non c'era quando crollarono 15 metri di mura aureliane a Roma. Salutando degli ospiti. Vabbè, ho capito, saluti degli ospiti, sto leggendo il messaggio di Paolo da Lecco. Sto salutando delle persone qui a Settembrini, via Settembrini, a Roma. Ho un aperitivo, ma non volevo. No, per carità, fai pure con tranquillità. Lo sfarinamento dell'Italia non c'era quando crollarono 15 metri di mura aureliane a Roma. Veltroni, sindaco, e Rutelli, ministro dei beni culturali. Tiè, Paolo da Lecco. Traffico, grazie Toscani. Grazie, a presto, mi raccomando. Ci dobbiamo sentire più spesso qui. Attenzione alle malattie venere. Sì, attenzione. Ciao, grazie. Vivo la vita, così alla giornata, con quello che dà. Siamo qui adesso, ascoltatori, 800 24 00 24. Devo dire una cosa, Parezzo, c'è un vertice a tre alla Camera con Fini e Casini, c'è anche Rutelli, insomma. Vertice a tre alla Camera? Esatto, Fini, Casini e Rutelli. Casini e Rutelli. Si muove qualcosa, è evidente che si sta muovendo qualcosa. Che brutta vedremo. Compagnia. Non lo so, brutta, Fini, bella, perché? Casini, perché dici brutta? No, Fini e Rutelli insieme che fanno un vertice. Cioè, Fini e Rutelli che fanno un vertice insieme. Vertice a tre alla Camera. Va bene, 800 24 00 24. Vogliamo spiegare una volta per tutte questa roba qua di Califano e di Lavezzi? Perché mi stanno ossessionando con questa storia. No, con questa storia. Io voglio spiegarlo ai tuoi radioascoltatori. Ecco, ascoltami, che abbiamo parlato prima, io e te, eccetera, eccetera. Ci siamo parlati al telefono e abbiamo detto come possiamo un po', come dire, giocare sulla vicenda Califano, Lavezzoli, eccetera. E allora hai tirato fuori questa cosa dell'attaccante del Napoli, ma chiaramente tutti noi sapevamo perfettamente che Lavezzoli è l'attaccante del Napoli. Lavezzoli, come Capezzoli, eri ancora preso da cosa? Eri ancora preso dalle malattie venere di... Esatto, sono rimasto. Quindi era una gag, cioè è evidente che si sapeva perfettamente che Lavezzoli è l'attaccante del Napoli. Esatto. Stavamo scherzando, questi radioascoltatori sono troppo preparati, capito? Sì. Hai un pubblico troppo erudito, troppo colto. E vabbè, che vuoi fare? No, vabbè, insomma, sei... Però era uno scherzo, dai. Lavezzoli è un compositore, Mario Lavezzoli è un compositore napoletano con cui pare che Califano abbia scritto una canzone. Laura da Roma, 800 24 00 24. Siamo qui insultati da tutti stasera, anche da Toscani. Laura, cara Laura, mi dica qualcosa di nuovo, di gentile. Buonasera, guardi, è un'ora che sono al telefono ma mi sto crepando dalle risate perché la gente è così ignorante che non capisce un cacchio. Addirittura. Perché in questo momento è la prima volta che Bondi ha ragione e non c'entra niente. Perché il Ministero dei Beni Culturali ha in tutte le regioni i suoi referenti. Sì, ho capito, però questi referenti rinomina... Sì, no, è che lui purtroppo c'ha un contorno sbagliato che non lo avvertono. No, ho capito, però la responsabilità, diciamo, alla fine è sempre quella del ministro, vogliamo. Poi, ripeto, abbiamo già parlato... Sì, ma per carità, ma non è possibile, perché è crollato qui a Roma le nostre mura. Che ha fatto Rutelli? Che se n'è andato via? No, non è successo niente. Li hanno rimessi a posto e finito tutto. No, senta, è così bella la sua trasmissione che se verrò a Milano, perché ho dei nipoti, venire a trovare. E poi questo signor Parenzo, avrei tanto piacere di conoscerlo, se è possibile. Ma volentieri, signora, guardi, io da domani sono in Piazza di Pietra, lei è a Roma, no? Io sono nata a Roma, abito a Roma. E allora venga a prendere un caffettino a Piazza di Pietra, domani le offro un caffè, un aperitivo. Senta, adesso vediamo in base alla crisi economica cosa possiamo permetterci. Verso le 19.30 lo trovo lì. Sì, dalle 19.30 venga, lo mettiamo in conto all'amministratore delegato della radio e ci prendiamo un aperitivo. se vuoi si scrive il mio numero di telefono. Vabbè, adesso poi fate voi, insomma. No, poi magari comunque ci sentiamo. Le lascio il mio, guardi, 347. Io sto parlando al telefono, non c'ho la possibilità. Non c'è, ma lei in che zona abita di Roma, signora Laura? Io a Piazza Mazzini. Piazza Mazzini, ma lei, secondo lei, Piazza Mazzini è vicino dove sta adesso Parenzo, Io adesso sono a Via Settembrini. Ma la conosco Piazza. Via Settembrini, scenda da Piazza Mazzini, Via Settembrini, così va da Parenzo. Sto esagerando. Signora Laura, ma adesso mi devo sentire la partita da Lazio che deve vincere. Speriamo. Volevo dirle invece che Califano è appunto Califano, ma ci andrebbe ad abitare a Piazza Mazzini, andrebbe a Piazza Mazzini, ci verrebbe Califano. È un grande schifo, se si permettono i nostri governanti, la Polverini o questo sindaco che non lo sopportiamo più. No, ma il sindaco non c'entra niente, pare per adesso è tutto in mano alla Polverini. Comunque, vabbè, ma anche la Polverini, perché poi la Polverini la vado a aspettare fuori, perché voglio vedere che cosa poi mi sa dire per darmi un aiuto a me. Ma perché Califano? Perché ce l'ha con Califano? Perché si è mangiato tutti i soldi? Perché ce l'ha? Certo, perché lui ha avuto miliardi, gli sono passati, bravissimo, per carità, tutto quello che. Però invece di mangiarsi tutto, si doveva mettere da parte i soldi e la cassa se la poteva pure fare. Questo perché non c'è, questo non c'è dubbio. Ma ci sono tantissimi nel quartiere qui di Prati, ci sono veramente famiglie talmente povere, sì, che si vergognano di andare a chiedere i soldi, e il parroco con l'aiuto dei parrocchiani va in casa a prendere le bollette e gliele va. E dunque a pagare. Lei dice, perché invece ha quello, capito, che si è mangiato tutti i soldi deve avere la casa dalla Polverini? Come un'altra grande attrice che si è permessa, che adesso gli danno anche il vitalizio, poverina, dopo che si è mangiati i miliardi. Allora ci dobbiamo andare tutti a divertire e poi chiediamo tutto a... No, tutti no, se uno si chiama Califano sì, se uno è un poveraccio, no. Questa è la vita, pure è fatta così, è fatta, ci sono quelli che possono e quelli che non possono, gli artisti e i cittadini comuni. Sì, ma guardi, lo so benissimo. Va così. Però... Allora, però io devo dire una cosa, grazie Laura di questa telefonata molto bella. No, però tutte queste discussioni di questi giorni sulla vicenda Califano, ho maturato questo pensiero, adesso non esageriamo, pensiero mi sembra troppo sulla vicenda Califano. No. È una vicenda che merita riflessione. Sì, no? Sì, però la riflessione è questa. Allora eliminiamo direttamente la legge Bacchelli. Però, perché se c'è, allora forse Califano ne ha pure diritto, perché non è che la legge Bacchelli va a, come dire, a indagare sui motivi perché uno ha sperperato i soldi. Cioè, uno o è rimasto povero in canna perché non fa più i concerti, o è rimasto povero perché se ne è mangiati tutti. Non fa differenza. Ma cioè, io credo adesso. Senta, scusi, dica a Parenzo che sta un attimo buono. Zitto. Allora parli lei. Volevo dire, questa legge qui è una legge proprio per aiutare gli attori, i cantanti, è una cosa per loro, giusto? È vero o no questo? Sì, certo. Ah. Ma io le voglio portare un esempio. Io sono vedova di un medico. Allora? La cassa dei medici, sì, che si chiama EMPAM, che lei, sì, ecco. Io sono una famiglia di medici, figuriamoci. Allora sa benissimo che è una cassa privata solo e poi esclusivamente dei soldi dei medici. E allora? Allora, chi ha problemi economici. Laura, però mi sintetizzi il suo. No, adesso le dico, chi ha l'EMPAM, sì, dà un sussidio straordinario, sì, a, sì, chi ha bisogno. Sì, allora... Bene, in questo momento, nell'ultima, sì, finanziaria, Berlusconi e il ministro l'hanno messa con tassazione. Io dico, due volte si pagano le tasse, perché una volta la paga il medico perché mette, sì, i soldi là, sì, una volta perché poi mi li dà me, io ci ripago le tasse, sì, e poi agli attori e alle cose, allora va tutto bene se devono prendere tutto senza pagare niente. Va bene Laura, grazie. Lo so, va così. Borsa, Federico da Milano, Giorgio da Torino, Nicola da Pescara, Maurizio da Mantova, subito dopo. Ecco Eccoci qui di nuovo in diretta da Milano, Giuseppe Cruciani studio alla Zanzara insieme a David Parenzo che è in collegamento da Roma vicino Piazza Mazzini, non ti fare raggiungere dalla signora Laura che salutiamo no, naturalmente, via Settembrini, il numero non lo dico però. Via Settembrini, ma si può anche dire, non è un segreto. Io sto cercando da tempo una sigla per gli interventi di Francesco Pionati, non la trovo, dunque mi devo far aiutare dall'interessato. Pionati, buonasera. Buonasera. Che sigla possiamo fare? Ce l'ha lei qualche cosa quella sua? Del PG1, questa bella, sua di Amarcord, qualche cosa di Amarcord di Pionati? Sì, il De Profundis. No, no, che De Profundis? No, no. Per come ridotta l'Italia gli adatto. No, no, però sì. Qualcosa di suo, di sonoro, dei suoi sì. Mitici panini. Pastoni. Pastoni. Senta, panini sono troppo leggeri, dica. Ma oggi ha visto Berlusconi, lei? Sì. Che vi siete detti? Ci siamo detti che le cose si stanno mettendo male, lui è convinto che non bisogna votare perché l'Italia non capirebbe, invece sono convinto che Fini quello cerca e l'importante, come insomma sostengo da tempo, è che il cerino non resti in mano al Presidente del Consiglio. Ma lei come l'ha visto Berlusconi? Ormai rassegnato al fatto che si deve dimettere? No, l'ho visto, posso essere testimone di una ripresa fisica eccezionale. Anche come ripresa fisica? In che senso? E alcune settimane fa l'ho incontrato e mi sembrava sofferente, probabilmente era per il problema del tunnel carpale lì, del braccio, sì, sì. Invece è caricato in forma efficiente, brillante, ottimista. Questo è molto, cioè voglio dire, chi lo vuole far fuori sappia che lo scontro sarà all'ultimo sangue, all'ultimo, esatto. Sangue. E lei sarà lì al suo fianco o no? Sì, io sono una persona leale, tra l'altro la mia specialità è non abbandonare le persone in difficoltà e quindi perché in questo momento Berlusconi è in difficoltà io non lo lascio per principio. Vuole morire alla fine se mai dovesse morire? No, non esageriamo. No, sto dicendo una metafora, no? Dice l'ultimo dei giapponesi, lei è lì? No. Giapponisti, sono alto, troppo alto. Salò, nemmeno per essere giapponese. Salò, invece la metafora di Salò, morire a Salò. No, Salò, questa è la roba che lasciamo a Fini, anche se Fini tra un po' rinnegherà che esiste anche Salò tra qualche mese. Che volevi chiedere, Parenzo? Volevo porre questa questione all'ottimo Pionati, cioè io credo che Fini non cerchi il voto, Fini in questa fase cerca discontinuità, cioè chiede al governo di riscrivere l'agenda. Ma quella è una tua fissazione. Parenzo, ma che gliene frega del programma Fini? Fini vuole abbattere uno per uno, Parenzo, che stavi dicendo? Io rispetto molto. Aspetti, Pionati, un attimo solo, Parenzo. No, voglio dire anche a Pionati, cioè fare un tagliando al governo è necessario, l'agenda va riscritta, va riposizionata, questo è il punto, questo chiede... Parenzo, cosa chiede concretamente? Dimmi una cosa, tu l'hai capito, che cosa? Di far fuori Tremonti? Ma è impossibile far fuori Tremonti, ma no. Non ha mai chiesto di far fuori Tremonti. Ma ieri hanno votato contro il governo, una mozione che riguardava i rapporti Italia-Libia, che era esattamente una sciocchezza, una carta straccia, se si sono divisi su quello figurati un po', non è questo, onestamente, su un programma l'accordo si trova sempre, certo. quando in politica si dice viene prima il programma e poi gli uomini, vuol dire che l'accordo è immediato, poiché non è così, che qualunque programma offri a Fini, sicuramente dirà no, Fini è in testa, primo l'azione di Berlusconi, secondo la vendetta con i suoi colonnelli che non l'hanno seguito, punto e basta, finché non ottiene questi risultati uno o l'altro o entrambi non si fermerà. Ma Parenzo, è talmente chiara come cosa, ma non è che la colpa è solo di Fini, stiamo dicendo ci sono delle responsabilità anche di Berlusconi, scusami, se voglio dirlo anche a Pionati, sì, che dimmi. L'uomo che quel palazzo lo conosce da sempre, se Fini avesse delle semplici ragioni come dire umorali nei confronti dei suoi ex colonnelli, ma sarebbe uno sciocco a mandare in vacca un partito e a rischiare di non prendere un voto. Ma non è il punto, ma non è questione di cose umorali. Fini ha deciso che è giunto a un certo punto, ha deciso che era giunto il momento di abbattere Berlusconi, di liberarsi di Berlusconi. Berlusconi non, questo è giusto, non solo, ma di recuperare uno spazio autonomo, esatto, con un partito che ha sbagliato a chiudere. Si è accorto dopo qualche mese. di non avere più l'azienda di famiglia. È così, ma guarda che è legittimo, Parenzo, guarda che è legittimo tutto questo, però non è che bisogna ammantarlo, non è che bisogna ammantarlo delle parole, la legalità, le cose. Ma come, ma legalità è mica una parola vuota. Ma no, ma Parenzo, tu pensi, tu pensi. Le interpretazioni sono un tema concreto. Ma lascia perdere, Parenzo, da questo punto di vista, Fini si è contraddetto 40.000 volte perché ha votato sempre. Per cui non è questo il punto è uno solo, il punto è uno solo, che a un certo punto voleva recuperare spazio politico. Poi che cosa ci metto dentro questo spazio politico? E ci metto la legalità, le cose, la destra moderna, Sarkozy, la legalità così sembra un supermercato. Ma no, ma è così, ma scusami, ma chi c'è? Ma chi c'è dentro Futuro e Libertà? Perciò delle persone per bene, ma c'è tutto il contrario di tutto dentro Futuro e Libertà. Posso essere testimone, quando ci sono state le elezioni del 2008 io ero portavoce dell'UDC, Fini in quell'occasione fu il più feroce oppositore di un'intesa elettorale fra PDL e UDC. Oggi è il paladino di Casini per un rientro in una maggioranza. Capisci che non c'è non c'è nessun nesso logico, è che sono cambiate le posizioni e quello che si vuole ottenere dalla situazione politica. E poi tutto quello che metti dentro per ammantare questa, si costruisce queste... tutto in seguito. E c'è tutte le cose ideali, questo qua. Vi do tre temi, non esistono i temi, ma i temi non esistono. Non siamo politica, assolutamente a questo livello. Temi, vuol dire che non ma non siamo, ma purtroppo la politica, purtroppo hai ragione, la politica in questo momento non è sulle cose concrete, ma è scontro di persone, territori da conquistare. Il tema dell'intercettazione. Ma scusami un attimo, ragazzi, ma Fini è stato al governo con Berlusconi 10 anni, ma che non conosce l'agenda di governo che vuole fare Berlusconi? Perché non lo sa che vuole, che non lo sa che vuole. 10 anni che Berlusconi deve proteggersi dalla magistratura, lo si voglia o non lo si voglia, lo si condanni o no. Adesso lo scopre Fini all'improvviso. Ma dai, ma tutto quello che si tutto quello che si mette dentro il contenitore di Futuro e Libertà in questo momento non conta nulla. Tant'è che ci sono 40 posizioni, ma ci sono 40 posizioni diverse. Va bene, ma come in tutti i partiti, anche nella Lega c'è Borghezio e poi c'è Giorgetti. Scusa, ma dimmi tu che cosa unisce? Che cosa unisce Benedetto della Vedova e Granata? Cosa unisce Benedetto della Vedova, che è un garantista, con Granata? Che cosa li unisce secondo te? Il fatto che entrambi vogliono trovare uno spazio politico, lo trovano a confini per abbattere Berlusconi, punto. Aspetta, Parenzo, un attimo, Violati. Sanno tutti che il partito di Fini non riuscirà a portare in Parlamento il numero di parlamentari che ha oggi, qualunque sia il risultato. Sa che sta succedendo? Che chi vuole mettersi al riparo diventa più realista del re e quindi scavalca Fini nell'aggressione al centrodestra, Berlusconi e quant'altro. Cioè questa è solo una guerra di posizionamento per ottenere spazi che si sono coscientemente o incoscientemente perduti. Senta Pionati, ma questo incontro con Berlusconi alla fine come è andato? Cosa gli ha detto Berlusconi? È in partenza per Seul. Ripeto, lui è ottimista, ci siamo visti e sentiti. Io gli ho detto che la mia analisi era un po' più pessimista della sua. Comunque la cosa importante è che Berlusconi non dà le dimissioni, va avanti. Non darà le dimissioni, non darà le dimissioni. Chi lo vuole fermare lo deve fermare con un voto. Se questi ritirano la responsabilità, se questi ritirano la delegazione di governo, secondo che succede? Allora, poiché la crisi si apre con una sfiducia parlamentare, secondo me, se questi ritirano i ministri, Berlusconi integra i ministri, va al Quirinale e poi va in aula. E dove si piglia la fiducia sicuramente al Senato, e alla Camera c'è il punto interrogativo. La fiducia c'è la crisi e si va al voto, se ha la fiducia va avanti. Al voto, poi bisogna vedere qui, sai, le manovre. Però guarda, io dico questa storia del governo tecnico, se fanno un governo tecnico, io mi sono permesso anche di dirlo in un'intervista al giornale, se facessero un governo tecnico lungo, per Berlusconi sarebbe un vantaggio, perché al di là della soddisfazione di averlo eliminato dalla scena politica, ma che possono governare forze così eterogenee? Cioè non riuscirebbero senz'altro a fare meglio di Tremonti in economia, non riuscirebbero senz'altro a fare riforme istituzionali condivise. Ma Berlusconi è consapevole che ci vuole questo passaggio parlamentare dopo le dimissioni di Futuro e Libertà, comunque dopo la ritiro della delegazione? Questo glielo chiederà il capo dello Stato, è inevitabile, dopo l'uscita di tanti ministri, la loro integrazione, ci vuole un voto di fiducia per verificare se c'è ancora una maggioranza ministro parlamentare. In realtà è questo uno è proprio... questo è proprio l'ABC, insomma. Come ministro è uno? No, ministro è uno in realtà, c'è un solo ministro, Futura Libertà che ha, no, nemmeno un ministro. Che c'è Ronchi, come no? Ah, Ronchi, sì. C'è Ronchi, poi c'è Urso, viceministro. Poi c'è Urso che è un viceministro, e poi c'è qualche sottosegretario. Sono quattro pedine di governo, non le puoi cambiare come se nulla fosse. Devi fare in ogni caso il voto di fiducia, lo ha già detto Berlusconi, che lo porrà finché ovviamente avrà la fiducia, quindi non c'è nulla di strano, insomma, è un passaggio assolutamente regolare. Quello che invece ha sorpreso in questi giorni, che io giudico veramente anomalo, è che il Presidente della Camera, parlando da capo di partito, ha chiesto una crisi fuori dal Parlamento. Ah, questo se sicuro. Uno sta in Parlamento e dice di fare la crisi fuori, mi pare che non crede nemmeno nella propria funzione. C'è anche un'altra stranezza, caro Pionati, ed è questa, cioè, diciamo la verità, Berlusconi che parla di regolamenti parlamentari, di cose parlamentari, di crisi parlamentare, fa un po' ridere rispetto al Berlusconi che di solito il Parlamento non è che proprio abbia tutta questa grande però stima. Guarda, io lo dico, sono d'accordo con te, le anomalie qui sono. Oggi parlavo con Violante alla Buvette e convenivamo su una cosa, che ormai c'è un imbazzimento di ruoli, cioè non si capisce chi ha cominciato a venir meno alla propria funzione, ma di fatto oggi nessuno più rispetta la propria funzione, forse solo il capo dello Stato, però il ragionamento è che ad oggi la crisi deve essere portata in Parlamento, perché solo lì si può capire, e gli italiani possono sapere chi vota sì e chi vota no. Però è anche vero che è stata in Parlamento un mese fa e sembrava risolta, poi adesso ritornerà in Parlamento, magari danno la fiducia. Però finché danno la fiducia il governo è in piedi, cioè non c'è il fatto, il bullus istituzionale per il quale il capo dello Stato può dire basta, finché c'è la fiducia si va avanti. Poi onestamente il Parlamento sta lavorando poco e male, lo dico da deputato, noi passiamo due giorni a settimana o un giorno e mezzo a votare ordini del giorno che sono carta straccia, io qui lo dico e qui lo confermo, cioè sono sollecitazioni e raccomandazioni che non verranno raccolte da nessuno, è l'unico Parlamento europeo che fa questa attività. Quindi così, a me piace... in Europa si lavora in commissione al 90% e in aula al 10%, noi facciamo il contrario, perdiamo interminabili mesi in commissione e in aula poi andiamo a produrre, lo sai, quasi sempre cose utili. A me questo Pionati così a ruota libera mi piace molto, perché è il numero uno assoluto. Francesco, io dico solo una cosa, devo chiudere c'è il traffico. Che vuoi dire a Pionati? Che secondo me bisogna smettere di dire che Fini in questo momento sta abiurando al suo ruolo di Presidente della Camera, perché in verità va giudicato per come guida i lavori della Camera, quello che fa fuori dal Parlamento. Non c'è quasi mai in aula. Perché Spadolini non faceva politica, però diciamo la verità, Spadolini, sì, no, ma io sono d'accordo con te. Laiotti non faceva politica, nell'impazzimento generale ci sta anche questo, però che non sia un'anomalia rispetto ad altre situazioni, questo non lo puoi dire. Ma insomma, giudicato se guida bene la Camera. Ma oggi ha fatto un incontro a tre, adesso pochi minuti fa c'è stato un incontro a tre con Casini e con Rutelli. Che cos'è questa qua? Ma dov'è il problema rispetto alla gestione dell'agenda parlamentare? Ma non è un problema. Chi se ne frega, infatti. Però guarda la punta delle scarpe, alzi un po' lo sguardo, guardi davanti. Che veramente queste sono considerazioni che sta facendo esatte, ma sono proprio la parte microscopica del problema. Sopra si sta svolgendo tutto altro. Tutta un'altra partita. Traffico, grazie Pionati. Grazie. Buona serata, grazie. Siamo qui, Maurizio da Mantova, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Buonasera a lei, tranne al nulla Parenzo. Buonasera. Sono contento di essere qui. Se gli dovesse attribuire del pagliaccio offenderei i pagliacci. Maurizio, si calmi un attimo. Va bene. Io sono un leghista. Ma che c'entra questo? Non posso accettare le eresie che dice in trasmissione. Cioè, quale eresia? Per esempio? Che i leghisti sono nazisti. Non ha mai detto che leghista sono nazista. Ha scritto pure un libro sulla Lega, Parenzo, in cui certamente non ha dato i nazisti. È un insulto all'intelligenza, Parenzo. Ma che cosa? Non ha mai detto che sono nazisti leghisti? Ma quando l'ha detto? L'ha detto quando c'è stata la polemica, non so se è stata una settimana fa o 15 giorni fa. Ma lei si sbaglia. Le assicuro che non l'ha mai detto. Allora, Cruciani, io dico che sono dei furboni, ma non ho mai detto. No, l'ha detto. Vabbè, comunque. Non l'ha detto, se avesse detto un'enormità di questo tipo, cioè che i leghisti sono assimilabili ai nazisti, con il suo giro di parole. Vabbè, ma ho capito, ma lei ha capito male. Comunque, passiamo Cruciani, oltre. Andiamo oltre. Allora, Cruciani, io è 20 anni che sono leghista. E va bene, chi se ne frega. Tutte le razze. Quindi non si passi un messaggio che non è. Ma io, infatti, non voglio dire. Ma non l'ho mai detto. ma chi è che ma questo è quello che diceva, io ascolto bene, ho capito Maurizio, ma se noi diciamo che nessuno ha detto una cosa del genere, non è il mio pensiero, le assicuro che non è, ho detto che sono dei furboni, che sono dei bravi politici. Infatti prima cosa diceva, piuttosto si dava a casa Califano, io avevo un rom. Ma che c'entra col fatto di dare ai nazisti? Quella è una provocazione, quella era una provocazione. No, provocazione no. Dare le case ai rom è giusto, secondo me. Insomma, dipende. No, ma ha ragione Cruciani, è giusto. Infatti a Mantova le case sono state date ai rom. Cosa hanno fatto? Le hanno subaffittate alle prostitute e ai clandestini che pagano l'affitto in nero. Mentre invece gli italiani che hanno bisogno di case perché gli tolgono l'acqua e la corrente, invece quelli vanno in strada. Vabbè, ma lei su che cosa voleva intervenire? Maurizio, a parte Parenzo, su cosa voleva intervenire? Su questo voleva intervenire? Ma io volevo intervenire su Fini, che già averlo pronunciato come cognome, mi ribolle il sangue. È chiaro che dietro alla sua regia c'è la signora Tugliani che vuole avere l'uomo che sia il boss, perché prima era con Cosio, quello che è scappato, con Gaucci, e quindi una volta che ha perso il potere Gaucci, gli ha mangiato i soldi, se n'è andata. Vabbè, però al di là di questo, adesso non mi faccio tutta la storia di Fini, Tugliani. È chiaro, Cruciani, che dietro a Fini, lo capirebbe un bambino di 6 anni, che dietro a Fini c'è la sinistra che conta rancorosa. Poi? Quello lo capirebbe un bambino. Ho capito. IPM. Cavolo, gli hanno fatto passare la cosa di Fini e gli vanno a menare per 2 settimane a Rubi. Vabbè, PM, anche IP... la CIA. La mafia, chi e c'è? Poi, no, ma c'è altro. E poi dopo c'è un'altra cosa. Che c'è? Ci sono le sinistre, quelle proprio che vogliono distruggere Berlusconi. Ma guardate che Berlusconi non sarà un santo. No, questo no, sicuro. Secondo me, oggi di meglio la politica italiana non offre. Vabbè, secondo lei è così. Maurizio, bene, grazie. Senta, chi c'è dietro Berlusconi, dietro Fini, poi, oltre a tutte queste cose? La mafia? La CIA. La mafia? No. No. Guardi, la mafia che si vuole vendicare di Berlusconi? No. No, c'è la mafia veramente è a Roma. E sono la mafia... Ma guarda che la Lega pure a Roma, Maurizio. No, momento, per me ci sono due tipi di mafie. Quelle che fanno la manovalanza, bombe, fucili e poi? E robe varie. E poi ci sono quelle che comandano. Quelli sono tutti a Roma. Ma anche i leghisti sono a Roma, le faccio notare. Ma come mai io non sento mai un certo scalfaro? Ma che c'è può essere pure scalfaro? Bloccato quando era presidente. Siamo andati pure a scalfaro. E gliel'hanno bloccato perché io ho la memoria buona, sa? Lo so, questo ho capito. La memoria buona. E questa è una vergogna italiana. Memoria buona, ma male usata. Ma usata adesso, male. Abbiamo un di Pietro. Parenzo la punge. No, memoria. Ha una ottima memoria, ma usata molto male. Usata molto male, hai capito? Parenzo punge. Quelli che sanno così per me non esiste. Per me lei, è come Otelma. È nulla. Otelma è da Nobel. A rapporto è Parenzo. Otelma è da Nobel, non da Oscar, da Nobel. E con il Parenzo che è nulla di Maurizio Damanto. Maurizio, lei è tipo spettacolare. David, buona serata. Pietro buona da Vicenza, Luigi da Torino, Federico da Milano, Giorgio da Torino, Nicola da Pescara, è andata così. A domani, se volete, se potete. Grazie. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare. La Zanzara.